Nessuno potrà mai capire il senso di tanto cercare, il modo di essere in pari coi tempi e i suoi ideatori. Tonio si infuria, ma non si arrende a chi non lo sta a sentire. Spende e poi si sta a lamentare. Pure la vita è lunga, ha più cose di ciò che propone. Se fai il bravo sai che si allunga, ma se vuoi te la fai in un boccone. Tonio non sa che gli aspetta, chi dirà la sua verità. Forse gli attutiranno la botta dicendo un po' di falsità. In fondo lo sai che ci vuole più tempo per tutto. Conta chi vicino tu sei, ti tornerà indietro il doppio. In fondo lo sai che quello che ti andrà stretto potrà sempre levarti dai guai se qualcuno tu avrai costretto. A tutti piacerebbe volare così in alto da non riuscire a vedere più il mondo, nemmeno ascoltare chi è qui ad insegnarci a planare. Perché tutto quanto ha una fine, sai che è brutto se fosse il contrario. Non staremmo qui a farci domande e nemmeno esisterebbe il petrolio. In fondo lo sai che ci vuole più tempo per tutto. Conta chi vicino tu sei, ti tornerà indietro il doppio. In fondo lo sai che quello che ti andrà stretto potrà sempre levarti dai guai se qualcuno tu avrà. Tonio tutto questo lo sa e sa anche che un giorno lo capirà. Camminerà a lungo così, nessuno mai lo seguirà. E girando il mondo si approprierà di quell'esistenza sfortunata. Chissà se anche mamma e papà questa cosa l'avranno mai capita. In fondo lo sai che ci vuole più tempo per tutto. Conta chi vicino tu sei, ti tornerà indietro il doppio. In fondo lo sai che quello che ti andrà stretto